giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Due morti nello schianto avvenuto sull'autostrada A4 nei pressi di Portogruaro, coinvolti tre mezzi, una vettura, un camion e un furgone fermi sulla terza corsia chiusa per lavori. Si ipotizza un malore del conducente. Controlli nelle fiere del Pordenonese, scoperti 8 lavoratori in nero. Le verifiche della Guardia di Finanza hanno riguardato la rassegna del radioamatore di Pordenone e quella primaverile degli uccelli a Sacile. Lunghe code di migranti si formano quotidianamente davanti alla questura di Trieste. Per cercare di venire loro incontro, la Caritas propone di creare uno sportello per registrare gli arrivi e snellire la presa in carico. Il recente maxi blackout accaduto in Spagna e Portogallo ha focalizzato l'attenzione sulle criticità di un mondo in cui l'energia è più legata alle risorse rinnovabili, in particolare al fotovoltaico. Tra i comuni della regione permangono ancora differenze tra le tariffe per la Tari e per il consumo dell'acqua. I dati sono stati diffusi da Adiconsum e Federconsumatori. Tre anni dopo i roghi che hanno devastato il Carso in provincia di Gorizia e Trieste, nella puntata di Buongiorno Regione ci siamo occupati di prevenzione degli incendi boschivi. Tra gli interventi di manutenzione, particolare importanza rivestono la pulizia da arbusti e sterpagli delle strade boschive. In Piazza Unità la Trieste Spring Young, manifestazione pensata per i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie, che rappresenta da anni un momento di festa, apprendimento e inclusione nel calendario della Trieste Spring Run, la settimana interamente dedicata allo sport e alla valorizzazione del territorio triestino. Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi e Lara Zani, in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 30 aprile. Un'edizione che dobbiamo purtroppo aprire con una notizia di cronaca. Due vittime sono il bilancio di un grave incidente che si è verificato stamane verso le 10:15 sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. A rimanere coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna. Nel punto in cui è avvenuto il tragico sinistro, al chilometro 452, poco prima dell'uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto, lungo la corsia più veloce, un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali. Il cantiere era segnalato un chilometro prima per chi proveniva da Trieste e delimitato dai coni. I lavori si stavano svolgendo secondo i criteri di sicurezza, sottolinea la concessionaria, in una fascia oraria in cui, come da previsione, lungo la direttrice Trieste-Venezia il traffico scorreva normalmente, con poco meno di 600 transiti all'ora. Stando a una prima ricostruzione, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto ha oltrepassato il cantiere, abbattendo i coni, quindi ha sbattuto più volte contro la barriera di sicurezza centrale e infine ha centrato a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico fermo all'interno del cantiere, che a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori. A perdere la vita sono stati i due occupanti del veicolo leggero che ha provocato l'incidente. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento sono segnalate code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. E maggiori particolari su questo incidente nei prossimi appuntamenti informativi, a cominciare dal telegiornale delle 14. Un'altra notizia di cronaca con i finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone che hanno scoperto tra gli stand della 78esima fiera primaverile degli uccelli di Sacile e della fiera del radiomotore di Pordenone 8 lavoratori in nero, 7 quelli scoperti a Sacile, 6 in uno stand di ristorazione, 1 in un bar e 1 a Pordenone al banco di un espositore, tutti sorpresi a lavorare senza la necessaria preventiva comunicazione di assunzione al competente centro per l'impiego. Per una delle attività è stata proposta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività per aver impiegato personale in nero in misura superiore al 10% degli occupati regolari. Nei confronti di altri operatori, i militari hanno contestato anche diverse violazioni all'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Dall'inizio dell'anno le fiamme gialle del Friuli Occidentale hanno scoperto 104 lavoratori in nero e 42 irregolari, più di uno al giorno, sanzionando 81 datori di lavoro per 32 dei quali è stata proposta la sospensione dell'attività. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Via Ermeta Trieste hanno arrestato nei giorni scorsi un sedicenne triestino con l'accusa di furto aggravato e lo hanno denunciato per ricettazione e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il giovane, insieme a un'altra persona non identificata, era stato notato da alcuni passanti mentre con indosso un passamontagna si aggirava tra le autovetture in sosta in largo città di Santos. La pattuglia intervenuta aveva poi notato le due persone in prossimità dell'ingresso della stazione ferroviaria. Alla vista dei militari, uno dei due giovani è fuggito, mentre l'altro è stato fermato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati documenti e oggetti appartenenti ad altre persone, oltre a un coltello, e si è appurato che i due soggetti avevano danneggiato un'autovettura e trafugato vari oggetti al suo interno. In questi giorni si sono formate lunghe code di persone migranti davanti alla questura di Trieste. Tra loro c'è ancora chi dorme nei magazzini abbandonati del Porto Vecchio. La Caritas propone di creare uno sportello per registrare gli arrivi, snellire la presa in carico, evitando quindi le lunghe code davanti alla questura. File di persone migranti fuori dalla questura di Trieste, ci sono giornate in cui sono più o meno numerose le persone, le temperature più alte della primavera, si sa, favoriscono gli arrivi dalla rotta balcanica, le storie sono quelle che ormai siamo abituati ad ascoltare, soprattutto pakistani e afghani, ci sono ancora persone che vivono per strada, sono una quarantina secondo i CS. I magazzini abbandonati di Porto Vecchio restano il riparo più facile per chi ancora non ha un luogo dove stare, eppure i trasferimenti in altre regioni proseguono regolarmente in modo bisettimanale. I posti in accoglienza diffusa sono tutti pieni. Dopo Spazio 11, inaugurato un paio di mesi fa e che ogni notte dà un rifugio temporaneo a chi è di passaggio, Caritas ora propone un'altra novità per questa città, una sorta di sportello, prendendo ad esempio Trento con C in forma. Ne parliamo con padre Giovanni Lamanna, direttore di Caritas Trieste. Che cosa farebbe questo spazio e chi lo gestirebbe? Allora, il Cinformi di Trento è un'esperienza che va avanti dal 2001, quindi non ci inventeremmo nulla. Il migrante cosa farebbe? Migrante eviterebbe la fila o il tentativo alla questura e si recherebbe alla questura su appuntamento. Quindi, diciamo, la formalizzazione della sua presenza avverrebbe in questo sportello, non più in questura, e quindi si eviterebbero le file. Potrebbe essere. È fattibile, secondo lei, in questa città? È frutto di una scelta della comunità e di chi governa la comunità sperimentare una possibilità che è un aiuto. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il recente maxi blackout accaduto in Spagna e Portogallo ha focalizzato l'attenzione sulle criticità di un mondo in cui l'energia è sempre più legata alle risorse rinnovabili, in particolare al fotovoltaico. L'interruzione generalizzata di energia elettrica in Spagna e Portogallo ha colto di sorpresa i maggiori esperti di reti come Giorgio Sulligo, il professore di ingegneria elettrica all'Università di Trieste. Mi sarei piuttosto aspettato che andasse giù qualche regione, non l'intera rete nazionale, diciamo. Questo è qualcosa che ovviamente merita uno studio attento e merita capire perché. Per spiegare il caso iberico si è parlato di una minore inerzia del sistema in un mondo in cui l'energia è più legata alle rinnovabili rispetto al passato. Mentre si indaga sulle cause, al di là dell'aspetto tecnico, abbiamo visto come l'elettricità che oggi diamo per scontata sia in realtà il frutto di progettazione, investimenti e gestione. Il sistema elettrico è definito da certi sistema più complesso che l'uomo abbia realizzato in termini di componenti che sono collegati. Per la variazione di frequenza che c'è stata in Spagna, l'ha vista tanto in Sicilia, quanto in Norvegia, quanto in Turchia. In un mondo sempre più in via di elettrificazione, quanto accaduto in Iberia rimette al centro le infrastrutture critiche come gli ospedali affinché siano pronte a resistere anche a lunghi blackout. Vale moltissimo l'attività di addestramento, quindi se ci sono i gruppi elettrogeni piuttosto che le batterie, gli UPS, i servizi di emergenza, è bene che chi gestisce le infrastrutture critiche faccia periodicamente le esercitazioni, le manutenzioni, tenga i sistemi in funzione. Cioè vanno fatte proprio delle prove che emulino la condizione al 100% della realtà. In ogni caso, la filiera dell'elettricità in Italia ha bisogno di più tecnici e ingegneri di quanti non riesca a produrne il sistema, avverte Sulligoi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra i comuni della regione permangono ancora differenze tra le tariffe per la Tari e per il consumo dell'acqua. I dati sono stati diffusi poco fa da Adiconsum e Federconsumatori in una conferenza stampa a Udine. Luci e ombre nella seconda indagine presentata poco fa a Udine dalle associazioni dei consumatori sulle tariffe della TARI e dell'acqua in regione. A confronto la spesa per i rifiuti in 215 comuni nei 4 capoluoghi, questi ultimi messi a raffronto anche sui costi del servizio idrico. Sul fronte TARI emerge che tra i comuni delle stesse dimensioni e stessa tipologia di servizio si conferma una notevole differenziazione nelle tariffe. C'è chi paga di più e chi di meno, stesso divario anche per l'acqua, anche se meno accentuato. Le associazioni dei consumatori sono al lavoro per avviare un confronto con gli enti preposti, a cominciare dai comuni, con l'ANCI e l'AUSIR, autorità garante regionale, per cercare di uniformare quanto più possibile la bollettazione, soprattutto per quanto riguarda la tariffa rifiuti, che è la più disomogenea. Il presidente regionale di Federconsumatori, Angelo D'Adamo, insieme ad Adiconsum, ha già mosso i primi passi per arrivare a un tavolo di confronto. Come mai questa differenziazione, D'Adamo, sulle tariffe della TARI? Allora, la differenziazione comunque è dettata dall'applicazione delle norme attuali, ecco, per cui tutto ciò che determina la tariffa oggi è tutto frutto comunque di applicazioni, di delibere, di ARERA e di regole, ecco, per cui tutto è corretto. Ma la domanda che noi ci poniamo comunque è che queste differenze che si notano dall'applicazione corretta delle regole devono essere mantenute così? Ecco, noi verificheremo comunque la disponibilità degli enti preposti con cui ci confrontiamo a lavorare per cercare di superare le barriere che queste regole oggi ci pongono. I rincari che voi avete osservato vanno dal 2020 al 23 e poi dal 23 al 24. Come mai così alti? 2023 senz'altro perché dettati da un tasso di inflazione molto alto. Il tasso di inflazione calcolato per quegli anni è del 16,05%. Ecco, mentre è molto più contenuto nel raffronto 23-24 con un tasso di inflazione all'1%, ecco, quindi questo è il dato che viene fuori. Si riuscirà ad arrivare a una tariffa unica secondo lei, quantomeno per l'acqua? Beh, questo è un sogno ed è una tendenza a cui noi possiamo anche aspirare, ecco, però il sistema è molto complesso, ecco, però creare condizioni di migliore e maggiore equità, ecco, questo è il nostro compito. Udine, Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, a Pordenone 22 gradi e mezzo, a Gorizia 23 e mezzo, a Udine 24 gradi, a Sappada 13 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 15 gradi, a Tarvisio 18, a Forni di Sopra 19, a Tolmezzo 21 gradi, sul Monte Lussari 9 gradi, sul Monte Zoncolan 11, a Grado 21 gradi e mezzo, a Lignano 22. E queste le previsioni dell'ARPA. Per oggi si prevede su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso e non si esclude qualche locale breve pioggia verso le prealpi carniche, temperature sopra la media del periodo. La Giunta del Comune di Udine ha approvato le linee guida di un sostegno triennale ai progetti pomeridiani destinati agli studenti delle scuole medie, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto alla povertà educativa, promuovere il benessere e prevenire il disagio psicologico degli adolescenti. A partire dall'anno scolastico 2025-2026 il Comune riserverà l'82% delle risorse disponibili, pari a 92.000 euro annui, alle attività di doposcuola, garantendo un orizzonte triennale fino al 2028 per i progetti rivolti a ragazze e ragazzi delle scuole medie pubbliche cittadine. Il restante 18%, pari a 20.000 euro, sarà destinato ad attività educative in ambito artistico, motorio e formativo, riservate in particolare alle scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie, all'educandato Uccellis e al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. A 3 anni dai roghi che hanno devastato il Carso in provincia di Gorizia e Trieste, nella puntata di Buongiorno Regione, che è andata in onda stamane, ci siamo occupati di prevenzione degli incendi boschivi e tra gli interventi di manutenzione particolare importanza rivestono la pulizia da arbusti e serpaglie delle strade boschive. I lavori fervono per mettere in sicurezza i boschi del Carso e di tutta la regione, perché ormai al ritorno del grande caldo manca poco. Obiettivo delle attività messe in campo dal Servizio Forestale Regionale è di mettere il più possibile in sicurezza le aree boschive esposte al rischio incendi. Nell'estate 2022 furono 4.000 gli ettari di foresta andati in fumo solo nella zona a cavallo tra Italia e Slovenia. Che cosa da allora è stato fatto? Risponde Paolo Benedetti, direttore dell'Ispettorato Forestale di Trieste e di Gorizia. Noi abbiamo avviato alcune linee contributive legate appunto alla manutenzione delle superfici boscate, della viabilità e delle aree aperte. Si tratta di intervenire in maniera tale che le infrastrutture, come adesso vediamo, siamo in questo cantiere, siano tali da poter essere sfruttate con sicurezza dagli operatori che intervengono sugli incendi boschivi e che possibilmente riescano anche a fare in qualche maniera da barriera, quindi a compartimentare il territorio in maniera che sia possibile bloccare l'incendio nei pressi di questa viabilità. Tra gli interventi di manutenzione, la pulizia da arbusti e sterpaglie delle strade boschive. Cristina Trocca, dell'Ispettorato Forestale Regionale. Viene fatto per rendere sicuro il transito lungo le strade forestali delle squadre con i mezzi antincendio boschivo. E questo serve a tutela del bosco, perché quando ci sono gli incendi boschivi, se le strade sono bloccate, gli operatori non possono transitare e quindi non possono raggiungere il fronte fuoco e quindi agire nella lotta attiva. Gli interventi di rimboschimento sono avvenuti però in maniera difforme tra un versante e l'altro del confine. Ancora Benedetti. In Slovenia è stato avviato da subito un programma di rimboschimento delle zone percorse dal fuoco, cosa che qui non è stata fatta, anche perché in molte zone, non dappertutto, è stato possibile verificare che il bosco comunque sfrutta la sua resilienza ed è in grado di riprodursi e di svilupparsi da solo. Duino, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il gruppo Danili ha deciso di sostenere le popolazioni colpite dal recente terremoto in Myanmar con una donazione di 48.000 euro alla Fondazione CESVI, organizzazione umanitaria attiva a livello internazionale. I fondi saranno destinati all'acquisto di kit per il primo soccorso e cibo, oltre che alla distribuzione di rifugi temporanei per garantire un alloggio sicuro alle famiglie rimaste senza casa a causa del sisma. In occasione dell'80° anniversario dell'insurrezione cittadina di Trieste contro l'occupazione tedesca avvenuta il 30 aprile del 1945, questa mattina si sono tenute due cerimonie nella sala del Consiglio Comunale, la solenne commemorazione e successivamente la tradizionale cerimonia commemorativa di deposizione di una corona al cippo della Resistenza nel Parco della Rimembranza di fronte alla fontana alla sommità della Scala dei Giganti, manifestazione organizzata dalla Federazione Grigio Verde. Per ripercorrere quelle dolorose vicende sentiamo il commento dello storico Raul Pupo. Professor Pupo, ci furono due insurrezioni a Trieste, un fatto più unico che raro. C'è una spiegazione, ovviamente. Ah sì, ma la spiegazione l'ha data Zlatan per tanti anni prima, dicendo Trieste è tutto almeno duplice o triplice, quindi abbiamo due resistenze, quella italiana e quella jugoslava slovena, due insurrezioni, due liberazioni. È fatta così, siamo una storia di frontiera, nelle realtà di frontiera le storie si incrociano, qualche volta si sommano e qualche volta purtroppo anche si urtano una con l'altra. Quale delle due componenti ebbe la meglio all'inizio e per quale ragione soprattutto? Ma è uno dei paradossi della storia triestina, no? Prima ci sono dei trionfatori, in questo caso il movimento di liberazione sloveno, perché arriva la quarta armata jugoslava. Poi però, 40 giorni dopo, il gioco si ribalta, perché per gli accordi internazionali Trieste viene assegnata all'Occidente, non all'Italia. Nell'Italia non importava assolutamente nulla a nessuno, ma gli angloamericani interessava il porto di Trieste, quindi viene assegnata all'Occidente. E i triestini hanno provato in ogni modo a decidere per conto proprio, facendo ciascuno la sua insurrezione. Poi però decisioni sono arrivate dall'alto. Quali erano le anime del CLN? Beh, il CLN era liberal democratico, c'erano tutti i partiti come nel resto d'Italia, meno il Partito Comunista dall'autunno del 44. All'inizio no, all'inizio nel 43, all'inizio del 44 il Partito Comunista era stato uno dei promotori, dei fondatori, dei massimi organizzatori del CLN. Poi c'è stata la volta d'autunno del 44 in cui invece sono usciti dal CLN e nella realtà giuliana ma anche del Friuli orientale hanno deciso invece di aderire alle organizzazioni del Movimento di Liberazione Jugoslava. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 30 aprile del 1945 Pordenone venne liberata dall'occupazione nazifascista. Per ricordare quell'evento gli studenti delle scuole superiori della città hanno potuto visionare a Cinema Zero il documentario La resistenza delle donne a Pordenone, frutto del progetto regionale Il Novecento in scena con le nuove generazioni. Vi si ripercorre la storia dell'occupazione tedesca dopo l'8 settembre 1943 nella città friulana, seguendo la testimonianza di Teresina De Gan contenuta nel saggio La resistenza nel Friuli occidentale. Per focalizzarsi su quello che accadde a Pordenone, in particolare sul coraggio delle donne, non solo partigiane, che si recarono in stazione per aiutare i deportati di passaggio in treno. Nella Pordenone liberata dai nazifascisti poco dopo le 8 del mattino del 30 aprile 1945, la grande storia della resistenza e della liberazione, ma anche le piccole storie di coraggio, non conosciute, raccontate dagli studenti del liceo Leopardi Maiorana. Luigia Venier, 14 anni, uccisa a fucilate alla dogana di Porcia. Margheritina Brisotto, detta Resi, si muoveva per portare i messaggi ai partigiani con i pattini a rotelle. Ruota attorno alla stazione un documentario da loro realizzato. Qui sono ancora visibili i fori dei proiettili dei partigiani su alcune colonne. In tanti, qui aiutarono i deportati di passaggio in treno sui carri piombati fino a liberarne a centinaia. Si diceva nelle altre stazioni: coraggio, a Pordenone riavrete la libertà. Una prostituta, Giuseppina Coran, detta Bepa, permise ai volontari della Croce Rossa di consegnare alimenti e acqua ai deportati e anche in alcuni casi di aprire i carri per farli fuggire. Ce la immaginiamo alla stazione, seducente e provocante, mentre cerca, con lusinghe, di distrarre i soldati tedeschi. Realizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri, il docufilm segue le ricostruzioni storiche di Teresina Degan. Bruna Braidotti, regista e direttrice artistica della Compagnia Arti e Mestieri. È stato anche per loro, no? Un modo di conoscere la storia in modo diverso, interpretandola, ecco. Storie di resistenza corale, non armata, silente, ma molto presente. Cristian Vicenzotto, dell'Istituto Friulano Storia del Movimento di Liberazione. Il clero locale in cura d'anime, che comunque dà il contributo nel soccorrere e nascondere resistenti, renitenti alla leva, civili, ma anche ad esempio dipendenti comunali che falsificano dei certificati, degli atti di nascita, persone che vanno a incendiare gli archivi comunali nella zona affinché non vengano trovate le liste di proscrizione da parte degli occupanti. Quindi una sorta di storia corale che comunque fa la memoria, fa la differenza. Pordenone, Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà inaugurato tra meno di un'ora nell'aula magna della Casa del Marinaio a Trieste il multiservizio di giustizia di comunità, con la presentazione degli spazi che saranno utilizzati dagli enti del terzo settore coinvolti nell'ambito dei progetti Ripartiamo e Inclusione Confronto Trattamento. Si tratta di percorsi di inclusione sociolavorativa a favore di persone sottoposte a misura penale, a costruire una rete di sostegno alle vittime di ogni tipologia di reato e a promuovere interventi di giustizia riparativa e mediazione penale, in linea con i principi della riforma Cartabia. Una galleria digitale che consentirà di vivere esperienze immersive uniche. Questo è il futuro di Galleria Bombi a Gorizia. Terminati gli interventi di consolidamento, si procederà infatti all'installazione nella parte centrale del tunnel di un LED wall lungo 100 metri con 925 metri quadri di pannelli, che sarà animato da opere digitali generate attraverso algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, in collaborazione con media artist e designer internazionali. L'opera resterà a beneficio di Gorizia ben oltre il 2025. E la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo in unica fase dell'intervento, della somma totale di 4.550.000 euro, 1.500.000 proviene dal PNRR, mentre 3.050.000 sono contributo regionale. La procedura negoziata sarà pubblicata da EDR in appalti proprio in questi giorni, con l'obiettivo di concluderla entro il 15 giugno. Gli interventi saranno avviati in via d'urgenza e quindi con la massima tempestività. La fine dei lavori è prevista per novembre 2025. È tornata a disputarsi in Piazza Unità la Trieste Spring Young, pensata per i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie, che rappresenta da anni un momento di festa, apprendimento e inclusione nel calendario della Trieste Spring Run, la settimana interamente dedicata allo sport e alla valorizzazione del territorio triestino. Sei pronto? Sì! Divertirsi certamente, ma anche imparare il valore di una piccola competizione, ma soprattutto prendere familiarità con il gesto della corsa. Per combattere la sedentarietà, negli ultimi 2 anni di scuola primaria c'è uno specialista dell'educazione motoria, ma poche ore non bastano e servirebbe iniziare prima. Roberto Furlanic, Trieste Spring Young. A questa età si formano nel carattere, nel fisico, in tutto quanto, per cui è fondamentale, anzi dovrebbe partire proprio dalle scuole, una maggiore sensibilità per lo sport. Lo sport dovrebbe essere completo, ok? Però bisogna lavorare soprattutto sulle basi, insegnare ai ragazzini prima di tutto il proprio spazio. Il percorso dovrebbe iniziare alla scuola dell'infanzia, portandoli nei giardini da parte delle famiglie per poi avere dei bambini che a livello motorio siano evoluti. Però diciamo che a scuola gli insegnanti riescono a fare un buon lavoro per insegnare a correre almeno. Anche per questo ci sono iniziative come la Trieste Spring Young per i bambini dalle scuole dell'infanzia alle primarie, dai 3 agli 11 anni, un momento di festa in piazza che ha coinvolto 1.500 partecipanti, 50 le scuole che hanno aderito all'iniziativa, anche se ancora troppe mancano l'appello per carenze di organico o organizzative. Tutti premiati, ma anche un podio a ricordare che i vincitori ci sono. Poi un meritato rinfresco. Quanto ti sei divertito da 1 a 10? Tanto, tanto. L'importante è la medaglia o il succo? Medaglia? Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Calcio continua inarrestabile il cammino dell'Italia Under 15 che ha superato con un secco 3-0 i coetanei della Slovenia, Gradisca di Sonso, nella semifinale per il primo e quarto posto, qualificandosi così alla finalissima della 21esima edizione del Torneo delle Nazioni. In programma domani alle 18 la finale sempre allo stadio Gino Colaussi, dove l'Italia affronterà la Romania che ha battuto la Cechia per 1-0 a Cervignano del Friuli nell'altra semifinale. Pallanuoto, nella gara 1 dei quarti di finale play-off del campionato di Serie A1 femminile, le Orchette Alabardate affronteranno questa sera il Plebiscito Padova. Si gioca nella piscina del centro sportivo Plebiscito con inizio alle 20. Il cartellone di prosa del Teatro Verdi di Pordenone, firmato da Claudia Cannella, si chiude con un'esclusiva per il Friuli Venezia Giulia, l'Empireo, per la regia di Serena Sinigaglia. È un testo contemporaneo in costume scritto da Lucy Kirkwood, classe 74, una delle più note drammaturghe inglesi, e ambientato a metà del 700. Nell'Inghilterra rurale. Oggi secondo e ultimo spettacolo alle 20:30. E oggi anche il concerto di gala a chiusura del 17° concorso internazionale di musica da camera Cameristi dell'Alpe Adria, organizzato dal Centro Ricerca Divulgazione Musicale. In programma la proclamazione dei vincitori e il concerto dei premiati. La serata è dedicata alla lotta dei Lions contro il morbillo e le malattie pediatriche con relativa raccolta fondi, nell'auditorium comunale di Maiano alle 20:45. David Bandel, poeta e musicista goriziano, presenta 11 anni e mezzo di silenzio, dialogo con l'autore Michele Hobbit, alle 18:30 nella libreria Caffè Knigarnia, Cavarna Maxa, Nova Gorizia. Per gli appuntamenti dell'anteprima del Trieste Book Fest, l'isola che non c'è, storie, persone e altri luoghi immaginari, Diego Marani, in dialogo con Fulvio Senardi, presenta L'ultima falsità al Museo Lezza alle 18. In programma inoltre la presentazione della mostra L'isola che non c'è ancora, curata da Peter Jankovic e Federica Luser, che si tiene alla Trarte, alla Passage Art contemporanea, con opere di autori vari, all'antico Caffè San Marco di Trieste alle 18. Continua il tour nelle sale del documentario di Mario Bonetti e Giovanni Zanotti, La notte del Conte Rosso, dedicato alla tragica vicenda del Conte Rosso, appunto. Un imponente transatlantico affondato il 24 maggio del 1941 da un sommergibile britannico al largo di Siracusa. Alle 21 nel Cinema Super di Trieste i registi autori del documentario saranno in sala per dialogare con il pubblico riguardo la pellicola da loro realizzata. Nell'ambito di Sorsi Solidali a Gorizia, la musica jazz incontra la videoarte grazie al progetto Hybrid Dreamscapes, un concerto multimediale che fonde musica live e videoarte e offre al pubblico un'esperienza immersiva e suggestiva. Alle 20:45 al Grand Hotel Entourage, in omaggio alla giornata internazionale del jazz che si celebra in tutto il mondo. E alle 12:57 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Beers, che vi parla. Collaborazione tecnica di Viola Romanese, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR, come sempre, alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.